Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alessandro La Terza, la casa editrice che fa scuola da quasi 130 anni. Di Anna Marino. Lo studente Alessandro La Terza era uno studente di lettere classiche nell'Università di Firenze, molto appassionato e per certi aspetti molto secchione, che sognava in realtà di continuare poi e di poter avere l'opportunità di studiare ancora storia antica piuttosto che filologia classica, ma poi è stato giustamente richiamato dalla famiglia a occuparsi di questa gloriosa impresa, che ovviamente è del tutto coerente comunque con il percorso di studi che ho fatto, e quindi è stata una grande opportunità e occasione che mi è stata offerta. Questi i ricordi degli anni passati sui libri di scuola di Alessandro La Terza, oggi amministratore delegato della storica e omonima casa editrice, che rappresenta la quarta generazione di famiglia. Nel 1982 entra nella casa editrice Giuseppe La Terza e figli, fondata il 10 maggio 1901, quando con una lettera circolare Giovanni La Terza, 1873-1943, annuncia la nascita della casa editrice Gius La Terza e figli. La società di famiglia era stata fondata nel 1885 da Vito La Terza a Putignano, un paese sito tra Bari e Taranto, che si occupava di commercio e di cartoleria. Si era poi trasferita a Taranto per approdare infine, nel 1889, a Bari, dove qualche anno più tardi, nel 1896, si amplierà con la nascita della libreria e della tipografia. Alessandro La Terza racconta così le prime foto dell'album di famiglia. I La Terza sono originari di Putignano, che è una bella cittadina molto attiva e industriosa, più o meno a metà strada tra Bari e Taranto. E La Terza, più propriamente la Gius La Terza e figli, perché questo è il nome dell'azienda, nasce come cartolibreria, viene fondata da un Vito La Terza, che poi chiama via via tutti i suoi fratelli a lavorare in azienda, compreso Giovanni, che poi creerà la casa editrice. L'azienda si chiamava Gius perché quando Vito La Terza fonda questa attività era minorenne e necessitava di avere la firma del padre per poter cominciare la sua piccola impresa. Ed è un particolare buffo, in realtà questa attività nasce dopo che Vito La Terza perde la mamma e tutti quanti i fratelli decidono con lui di uscire di casa perché il padre, come usava al tempo, riteneva di doversi risposare. Allora, per avere ciascuno la propria vita, è nata questa attività, e poi da Putignano l'attività è stata per breve tempo spostata a Taranto, che era molto attiva al tempo per la presenza dell'arsenale militare, e infine nel 1889 comincia la storia della La Terza a Bari, prima come cartoleria, poi come tipografia, poi come libreria e infine nel 1901 come casa editrice. Giovanni La Terza si propose inizialmente di farsi editore di servizio per gli autori baresi e pugliesi, con particolare attenzione ai temi della cultura tecnica, economica, commerciale, giuridica. Ma di fronte alla difficoltà di creare un programma editoriale con le sole risorse locali, cercò subito altrove referenti autorevoli. Decisivo per i destini della casa editrice è, nel dicembre 1901, l'incontro con Benedetto Croce. Anche questa è una storia interessante e molto italiana, credo. Quando nel 1901 Giovanni, quindi uno dei fratelli La Terza, concepisce l'idea di avviare un'attività editoriale, il suo progetto iniziale è molto diverso da quello che sarà la storia successiva. La sua idea è quella di fare essenzialmente una casa editrice forse più tecnica in primo luogo, quindi molto centrata su economia, diritto, e di avere un bacino di pescaggio di idee e autori essenzialmente locale, in primo luogo pugliese. Essendo uomo intelligente, Giovanni La Terza capisce però che con questo tipo di approccio non avrebbe fatto molta strada, e quindi non va a incontrare Croce. Lui in realtà si fa un giro di molteplici chiese, incontra un sacco di gente, cioè va a chiedere supporto e consigli a moltissime persone. tra cui alcuni nomi illustri come Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti, trova udienza, operativamente parlando, solo presso Croce, il quale coglie in questa offerta, in questa richiesta di Giovanni la Terza, sostanzialmente la possibilità di costruire una ipotesi culturale editoriale vergine, cioè senza condizionamenti di sorta e in cui potersi esprimere con l'influenza che poi Croce ovviamente ha espresso soprattutto all'inizio della storia della casa e facendone un po', come dire, l'immagine e costruendo di fatto la forza poi del marchio che per decenni è stato assolutamente predominante sulla scena intellettuale italiana. Dopo l'incontro tra lui e Giovanni la Terza, Croce tracciò nel giro di pochi mesi su un foglio bianco le linee guida e quello che di fatto è stato ed è ancora oggi il DNA della Terza. Fu Croce nel giugno 1902 ad invitare chiaramente Giovanni la Terza ad abbandonare il progetto di pubblicare opere letterarie. L'approccio di Croce all'inizio è stato molto prudente. Nel leggere la corrispondenza tra Croce e Giovanni la Terza è piuttosto sorprendente vedere che quello più preoccupato delle sorti economiche dell'azienda era Croce, mentre Giovanni, che non era certamente improvvido, però aveva un'inclinazione al rischio perché a un certo punto ha capito che c'era l'occasione per fare un discorso più grande di quello che aveva, molto più grande di quello che lui aveva immaginato all'inizio. Si va per passi successivi. Il fatto fondamentale è che ci vorranno alcuni anni prima che Croce affidi le sue opere alla Terza, quindi c'è un atteggiamento qui di un percorso comune che poi arriva a questa relazione esclusiva con l'autore, e poi c'è questo fatto essenziale che Croce, che nel 1903, quindi poco dopo l'incontro con Giovanni, sostanzialmente dice che la Terza si deve occupare di storia, filosofia, di storia della letteratura, non deve pubblicare in modo più assoluto narrativa. Sulla base di una considerazione molto saggia dice portare i libri la Terza sui banchi di scuola significa anche costruire un rapporto con il lettore di domani. Croce, che pubblicò con la Terza quasi tutte le sue opere e la sua rivista La Critica, ebbe un legame fortissimo con la famiglia La Terza, di cui Alessandro conserva memoria e anche i sapori pugliesi. L'aneddotica è fittissima anche perché, come è inevitabile, poi con Croce si è stretto un legame che non posso definire familiare, ma quasi. La memoria più forte, più netta, è quella della presa di posizione molto netta di Croce contro il fascismo e del fatto che le visite di Croce a Bari coincidevano in buona sostanza con delle riunioni dell'antifascismo locale. Tutto questo avveniva in una villa nei pressi di Bari, dove tra l'altro il rituale voleva, specie d'estate, che poi si consumassero dei banchetti in cui la facevano da padrone tutti i prodotti tipicamente pugliesi. I pugliesi, come è noto, sono grandi mangiatori di pesce crudo, frutti di mare crudi, di verdura cruda, e quindi c'erano queste sessioni di discussione, ma anche di, come dire, conviviali molto molto piacevoli. Il passaggio generazionale coincide con una svolta importante nell'attività e una nuova sede. Nel dopoguerra, la gestione della casa editrice passa nelle mani di Vito la Terza, che costruisce progressivamente attorno alla casa editrice una rete di autori e di interessi più ampia. Negli anni 60, la Terza cresce ancora, trasformandosi in società per azioni e aprendo una sede a Roma. Nasce essenzialmente nel secondo dopoguerra, pochi anni prima della scomparsa di Croce, quando si pone il problema di dover in qualche modo rinnovare la proposta della casa editrice, non cercando un Croce, figura probabilmente irripetibile, ma tanti Croce, cioè tante persone che potessero dare suggerimenti e indicazioni per il lavoro editoriale. Con la morte di Vito la Terza nel 2001, la gestione della casa editrice è passata a Giuseppe la Terza, che segue da Roma l'editoria universitaria e la saggistica, e a suo cugino Alessandro la Terza, che segue da Bari soprattutto l'editoria scolastica, e anche qui la ripartizione dei compiti in famiglia è una ricetta per il passaggio generazionale. Io rappresento la quarta generazione di la terza in azienda. La generazione che ci ha preceduto, essenzialmente mio padre Paolo e mio zio Vito, invece avevano una partizione di compiti molto più netta. Mio padre si è sempre occupato di questioni societarie, amministrative, essendo rimasto avvocato e quindi avendo una sua attività professionale staccata da quella dell'azienda, e Vito invece era totalmente impegnato in azienda. Noi siamo due, questo può sembrare un dettaglio, invece è fondamentale, sia perché noi abbiamo due sedi, Bari e Roma, e perché abbiamo ovviamente più forza. Pioniere già dal 2000 sulla nuova frontiera dell'offerta didattica in rete e più in generale nel campo dell'editoria elettronica, la terza offre per la scuola il libro misto sito più internet, che ne raccoglie i contenuti digitali per creare in futuro comunità di lettori. Oggi noi pubblichiamo regolarmente ciò che offriamo su carta anche in formato digitale. I numeri di questo mercato sono molto piccoli, lo erano nel 2011, lo sono stati nel 2012, lo saranno probabilmente anche nel 2013, con tassi di crescita molto rilevanti, ma che partendo da una base molto modesta ovviamente non fanno cifra, e non c'è concorrenza e competizione tra carta e ebook, magari, nel senso che questo potrebbe essere anche un elemento di diversificazione importante. Comunque non si può non esserci. Alessandro La Terza lancia un messaggio non solo come editore e libraio in Bari, ma soprattutto come uomo di cultura, con una sorpresa che ci riguarda. L'invito alla lettura, secondo me, è l'invito a riflettere, che l'operazione che in qualche maniera è necessaria quando si legge, è soprattutto un tempo di riflessione che può essere ottimamente accompagnato anche dalla radio, perché appunto, per esempio, la radio è un'altra forma di informazione e di comunicazione che spinge alla riflessione e non semplicemente alla assunzione passiva di quello che si decide di propinarci. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.